verità mi fa male. Non ho ricevuto alcun avviso di garanzia, ribadisce Roberto Formigoni. Solo un comunicato del resort San Vittore sugli orari della piscina in luglio e in agosto. Stessa spiaggia, lo stesso mare.